Storie italiane. La principessa Nina e i fratelli Centauro. C'era una volta, oltre le piramidi, il Mar Rosso e la torre che toccava il cielo, una foresta viola chiamata Miracolandia. Miracolandia ospitava le più belle creature magiche del mondo ed era protetta da una magica cupola che la rendeva invisibile al resto del mondo. Miracolandia era governata dai fratelli Centauro, esseri semi-umani e mezzi cavalli. Il fratello maggiore, Pegasander, era il più saggio e il più intelligente dei tre. Prendeva tutte le decisioni relative alle leggi e all'ordine del regno, ma era anche molto irascibile. Il secondo fratello, Doralo, era il più forte e responsabile della protezione della cupola magica dagli intrusi. Il fratello più giovane, Arion, era la creatura più bella e attraente di tutto il regno. Era così attraente che le sirene, le fate e le donne drago non potevano fare a meno di innamorarsi di lui. Arion era a capo della stregoneria e della magia e faceva in modo che nessuno usasse incantesimi per le ragioni sbagliate. Insieme, i tre fratelli Centauro governavano Miracolandia, assicurandosi che tutti fossero felici e in pace. Arrivata la primavera, fu il momento del consueto campionato mago migliore. Streghe e maghi provenienti da diverse parti di Miracolandia vennero per partecipare. I fratelli Centauro, essendo i più grandi maghi della Terra, erano i giudici. La folla aspettava da molto. Per prima arrivò la damigella di ghiaccio, che si inchinò davanti ai fratelli e poi fece uscire una struttura di ghiaccio dal bicchiere di Pegasander che assomigliava esattamente a Pegasander. Pegasander sorrise, la folla applaudiva. Poi arrivò, in un barile d'acqua con le ruote, il tritone verde. Si inchinò di fronte ai fratelli e poi creò bolle d'acqua nell'aria. Poi balzò in aria dall'acqua, trasformandosi in piccole versioni di se stesso intrappolate nelle bolle. Le bolle si unirono e Tritone Verde comparve di nuovo nella sua dimensione reale. Pegasander guardò Doralo e annuì. Poi arrivò il Rospo Leone, che salta come nessun altro sa fare. Poi una donna drago, seguita da una fata. Andò avanti per tutto il giorno e la folla lo amò. Quando i fratelli finalmente iniziarono a discutere tra di loro su chi dovesse essere il vincitore, improvvisamente sentirono qualcuno chiamare. Ciao, c'è nessuno? Penso di essermi persa. Intrusi! Arion si alzò immediatamente e mosse la sua bacchetta, ma prima che potesse fare un incantesimo emerse dai cespugli una donna così bella che lui si immobilizzò. La donna, che indossava una bellissima veste blu, sembrava una principessa. Oh, sono così felice di vedere finalmente... La donna cadde incosciente. Tutti i miracoliani si radunarono attorno a lei e la guardarono incantati. Come ha fatto un umano a entrare a miracolo? Doralo balzò in aria, volando. I suoi soldati lo seguirono, balzando in aria uno dopo l'altro. Nel frattempo, Arion chiuse gli occhi e spinse il dito sulla tempia di Nina. Cosa vedi? Solo il suo nome, principessa Nina, ma non riesco a vedere nient'altro. I suoi ricordi sono sfocati. Guardi e portatela in prigione e chiedetela fino a quando Dora lo scoprirà chi è questa intrusa e quali sono le sue intenzioni. Le guardie subito, usando la loro magia, sollevarono la principessa Nina e la portarono verso la torre della prigione mentre lei fluttuava nell'aria incosciente. quella notte Doralo tornò dai suoi fratelli e gli spiegò che non era stato in grado di scoprire come la principessa Nina fosse entrata nella terra di Miracolo, poiché la magica cupola era perfettamente sigillata da tutte le parti. Continuiamo a indagare, perché non è mai successo che un essere umano abbia messo piede nella nostra terra e dovremmo cercare di mantenere le cose così. Fino a quel momento la donzella rimarrà prigioniera. Doralo annuì e se ne andò, mentre Arion sembrava preoccupato. Più tardi quella notte, Arion con la sua magia apparve nella prigione dove era tenuta Nina. Lei era sdraiata e piangeva. Quando vide Arion, immediatamente si inginocchiò ai suoi piedi. Per favore lasciami andare, non ho fatto nulla di sbagliato e certamente non voglio farlo. Sono stata portata qui da un tornado che ha distrutto tutto il mio regno. Per favore lasciami libera, cavaliere. Sentendo che lo chiamava cavaliere, Arion ridacchiò. Non preoccuparti, bella signorina. Ora che so chi sei, dirò ai miei fratelli tutto e ti libereremo. Ah, grazie mille, cavaliere. Possiamo dirglielo adesso, per favore? Faccio fatica a respirare in questa prigione. Voglio respirare aria fresca. Il mio fratello maggiore, Pegaxander, prende molto seriamente il suo sonno e nessuno può disturbarlo mentre dorme. Ma non ti preoccupare, con la mia magia ti porterò nel giardino aperto dove potrai respirare aria fresca sotto le stelle e prima che il sole sorga torneremo alla prigione e poi andrò a dire a mio fratello tutto di te. Sei un cavaliere gentile! Il pipistrello assonnato, che era appeso a testa in giù fuori dalla prigione cercando di dormire, si schiarì la sua voce. Posso dormire un po'? Mi dispiace, pipistrello assonnato, ti lasceremo andare ora. Arion, con la sua bacchetta magica, creò un'apertura scintillante nel muro e i due uscirono dalla prigione tenendosi per mano. Pipistrello assonnato chiuse gli occhi mormorando. Che liberazione! Fuori, la luna brillava intensamente e le stelle sembravano belle come non mai. Arion, con la sua bacchetta magica, si trasformò in un uomo. Nena lo guardò con ammirazione perché solo ora, al chiaro di luna, riusciva a vedere chiaramente la sua faccia. Lei subito si innamorò di lui. I due si sdraiarono nell'erba soffice e fissarono le stelle senza dire una parola. Le loro dita si intrecciarono mentre si tenevano per mano. La leggera brezza soffiava dolcemente fra i loro capelli e presto i due si addormentarono. Quando il sole sorse, il giorno successivo, una guardia si precipitò nella sala e informò Pegasander che la principessa Nina era scomparsa. Fratello, non preoccuparti, la damigella non può essere andata troppo lontano. La riporterò da te. No, catturerò quella prigioniera con le mie stesse mani. Guardie, informate Arion di venirci subito incontro. Saremo fuori a cercare la prigioniera. Le guardie annuirono e i due fratelli centauro volarono via. Nel frattempo, Arion e Nena si svegliarono quando i raggi del sole sfiorarono i loro volti. I due sorrisero. Mi è piaciuta la tua compagnia, cavallo. Arion, mi chiamo Arion. I due sorrisero e si abbracciarono. Il calore del suo abbraccio trasformò nuovamente Arion in un centauro. Pegasander e Doralo, che erano fuori in volo, in cerca della principessa, all'improvviso li trovarono. Traditore! Arion e Nina si voltarono verso di loro quando i due atterrarono. Furioso, Pegasander prese la spada e la mise sulla spalla di Arion. Sei un traditore. La fanciulla significa per te più dei tuoi fratelli e di Miracolo? Fratello, per favore, posso spiegare? Non c'è bisogno di spiegazioni. Abbiamo visto ciò che doveva essere visto con i nostri occhi. Avanzò e strappò la bacchetta di Arion dalla sua mano. Ti condannerei a morte se non fossi mio fratello, ma penso che questa punizione sarà migliore per te. Pegasander puntò la sua bacchetta sulla bacchetta di Arion e ne tirò fuori tutta la magia. sei adesso esiliato da Miracolo. E non appena uscirai dalla cupola, ti trasformerai nella forma umana che hai accettato così volentieri per questa damigella. Ma, fratello! La decisione di fratello è definitiva, andatevene! Erion e Nena si voltarono e se ne andarono. Quando Erion uscì dalla cupola, si trasformò nella sua forma umana. I due, tenendosi per mano, si allontanarono il più possibile da Miracolandia. Erion era triste e Nena era triste perché si sentiva responsabile di tutto. Più tardi quel giorno, quando si sedettero vicino ad un ruscello per mangiare frutta e bere acqua, alcuni usurpatori di anime apparvero all'improvviso in aria. Risero malvagiamente. Il loro capo, Shodoa, era il più malvagio usurpatore di anime di tutti loro. Arion, il centauro più bello, è qui fuori in forma umana con una donna umana? Quindi è vero, sei stato esiliato da Miracolandia. Nena si nascose dietro Arion mentre fissava Shodoa con rabbia. Oh, non essere arrabbiato, sono qui solo per offrirti la mia amicizia. Unisciti a me, insegnami i magici incantesimi e insieme tu e io possiamo attaccare Miracolandia e governarla come dei re. Solo tu e io. Non tradirò mai i miei fratelli. Oh, non essere sciocco, i tuoi fratelli ti hanno buttato fuori da casa tua. Non capisci? Pegaxander non vuole altro che il trono tutto per sé. Tornato a Miracolandia, Pipistrello assonnato, che aveva sentito tutto da una guardia, andò subito da Pegasander e gli spiegò tutto ciò che aveva sentito. Oh, saggio re, Arion è innocente e così anche la principessa. Tuo fratello non voleva disturbare il tuo sonno e quindi ha aspettato fino al mattino per darti la notizia. Pegasander si vergognò, guardò Doralo e disse: Doralo, ho fatto un errore enorme. Andiamo subito e riprendiamo nostro fratello. Puoi togliermi la vita, ma non ti crederò mai e non mi ribellerò mai ai miei fratelli. Molto bene, allora. Non mi lasci altra scelta. Shadoa lanciò la sua magia nera e la diresse verso Arion. Ma Nena gli passò davanti e prese lei il colpo. Nena! No! Proprio in quel momento Pegasander e Doralo arrivarono e rilasciarono immediatamente energie dalle loro bacchette. Gli usurpatori di anime insieme a Shodoa subito si trasformarono in polvere. Pegasander e Doralo atterrarono vicino ad Arion, che continuava a piangere per Nena. Pegasander con la sua bacchetta magica fece rivivere Nena, che lentamente aprì gli occhi. Arion era entusiasta. Grazie mille, fratello. Non ringraziarmi, piccolo. Sono colpevole di averti cacciato senza nemmeno averti dato la possibilità di parlare. Hai fatto quello che un re avrebbe fatto ed è per questo che ti rispettiamo. Pegasander e Arion si abbracciarono. Sono così felice che tu ti sia riunito con i tuoi fratelli, Arion. Per favore, permettimi ora di andarmene. Non puoi andare. Sono innamorato di te. Anch'io sono innamorata di te, Arion. Ma non sono come te. Sono un'umana che ti ha causato molti problemi. Per favore, torna nel tuo regno e trova una bella centaura come te. Le lacrime uscirono dagli occhi di Arion e di Nena. Guardami, non sono più un centauro, sono un uomo. Sire, per favore, porta tuo fratello con te. Lui non mi ascolterà. E non dovrebbe? Dicendo questo, Pegasander mosse la sua bacchetta per chiamare il re dei tornado. Le foglie iniziarono a ruotare e apparve immediatamente una figura circondata da venti che giravano. Il grande Pegasander, perché mi hai convocato? La tua ira ha preso l'intero regno della principessa Nina e i suoi cari. Voglio che tu riporti tutto com'era prima. Informerai anche tuo padre, il re, che sta bene, che sposerà mio fratello più giovane, Arion. Di loro che li invito al grande matrimonio. Il re dei tornado annuì e scomparve. La principessa Nena saltò immediatamente piena di allegria e abbracciò Pegasander. Pegasander rimase immobile con la faccia seria. E anche Aerion e Doralo. Io mi dispiace, Sire. Pegasander ridiede a Aerion i suoi poteri magici. Poteva trasformarsi in un centauro e in un uomo in qualsiasi momento lo desiderasse. Il matrimonio venne celebrato e tutti a Miracolandia furono di nuovo felici. E per quanto riguarda Pegasander, non è mai più saltato a conclusioni affrettate prima di prendere una decisione.